Capitolo 9. La legge dell'amore. Disse il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: dopo la religione, il culmine della sapienza consiste nell'amore per tutti gli uomini e nel fare il bene tanto ai buoni quanto ai cattivi. La carità. A proposito della carità, il profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, disse: ogni azione buona è carità, la parola buona è carità, ogni azione buona è carità. Azioni buone sono andare incontro al fratello con il sorriso sulle labbra e versare acqua dal tuo secchio nel suo recipiente. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: la carità compiuta in segreto placa la collera di Allah. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: metter pace fra due litiganti è carità. Aiutare un uomo a montare sulla sua cavalcatura e sollevare da terra il suo bagaglio è carità. Confortare un afflitto con parole semplici è carità. Rispondere con pacatezza alle domande è carità. Carità, infine, è togliere dalla via ciò che può essere d'inciampo al viandante come spine e pietre. Disse ancora, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: quando sorridi a tuo fratello mentre egli ti guarda è carità. Quando esorti la gente al bene è carità. Quando proibisci ciò che è proibito è carità. Quando indichi la strada a quelli che l'hanno smarrita è carità. E quando assisti un cieco è carità. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: nel giorno del giudizio il credente starà all'ombra della sua carità. Disse ancora, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: all'alba d'ogni giorno, quando gli uomini si svegliano, due angeli scendono dal cielo. Uno dei due invoca Allah dicendo: o Signore, restituisci all'uomo caritatevole tutto quello che egli spende in carità. L'altro invece dice: o Signore, manda in rovina la ricchezza dell'avaro. E infine disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: la carità è una prova della fede. Insegnare a coloro che non sanno. Imparate i doveri religiosi e il Corano e insegnate agli uomini, perché io sono mortale. Disse: in verità, Allah, i suoi angeli e gli abitanti dei cieli e della terra, anche una formica nel suo rifugio e anche un pesce, di certo benedicono uno che insegna il bene alla gente. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: sia questo gruppo che quest'altro stanno facendo cose buone, ma uno dei due è superiore all'altro. Quanto al primo gruppo, essi invocano Allah e chiedono il suo aiuto. Se vuole, egli lo dà, e se non vuole, non lo dà. Quanto al secondo gruppo, essi studiano diritto islamico e scienza e li insegnano a coloro che non sanno. Questi ultimi sono superiori ai primi, e in verità, per certo, io sono stato inviato come insegnante. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: quando un uomo muore, hanno termine i meriti delle sue azioni, tranne tre casi: una beneficenza produttiva, una scienza utilmente insegnata e un figlio pio che prega per lui. Ordinare il bene e proibire il male. Il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, disse: ordinare il bene è un atto di misericordia, e così è un atto di misericordia proibire il male. disse, che Allah lo benedica e la benigloria, per colui nelle cui mani è l'anima mia, state sicuri che se non ordinerete il bene e non proibirete il male, certamente Allah vi castigherà. Voi lo pregherete, ma non riceverete risposta. Disse, che Allah lo benedica e la benigloria, tutte le parole che il figlio di Adamo dice non gli apportano altro che danno, ad eccezione di quelle che egli dice per ordinare il bene, proibire il male e ricordare Allah. Dar da mangiare agli affamati e dar da bere agli assetati. Disse il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la benigloria, la miglior forma di carità è dare da mangiare agli affamati. Disse ancora, che Allah lo benedica e la benigloria, Allah nutrirà con la frutta del paradiso il musulmano che dà da mangiare a un musulmano affamato. E disse ancora, che Allah lo benedica e la benigloria, Allah disseterà con l'acqua della fontana paradisiaca il musulmano che dà da bere a un musulmano assetato. Vestire gli ignudi. Disse il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la benigloria, Allah vestirà con gli abiti verdi del paradiso il musulmano che veste un musulmano ignudo. Disse ancora, colui che veste un musulmano ignudo sarà sotto la protezione di Allah fino a quando anche un solo brandello di quel vestito sarà indossato da quello a cui egli l'ha donato. Perdonare le offese. Disse il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la benigloria, la carità non intacca la ricchezza. All'uomo che sa perdonare le offese, Allah fa crescere il prestigio ed esalta chi si umilia per amore di Allah. Disse, che Allah lo benedica e la benigloria, dovete ristabilire la vostra relazione con chi l'ha interrotta con voi. Dovete fare un regalo a chi vi ha contrariato e dovete perdonare chi vi ha offeso. Disse, che Allah lo benedica e la benigloria, Mosè, figlio di Imran, chiese, «O Signore, chi è per te il servo più onorabile?» Rispose, «Chi perdona quando è in una posizione di potere», vale a dire che potrebbe fare del male a colui che lo ha offeso. Sopportare pazientemente le persone moleste. Il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la benigloria, disse, il musulmano che sta tra la gente e sopporta pazientemente le persone moleste è migliore di quel musulmano che per evitare le molestie della gente si isola. Consolare gli afflitti. Disse il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la benigloria, quando vai da un infermo, parlagli in modo da allontanare da lui il pensiero angosciante della sua morte. Così facendo non gliela eviterai, però avrai consolato la sua anima. Disse, che Allah lo benedica e la benigloria, colui che consola un credente liberandolo da un'afflizione della vita terrena, Allah consolerà lui liberandolo da una delle afflizioni del giorno della resurrezione. Disse, che Allah lo benedica e la benigloria, la miglior carità è quella che nascendo dal cuore esce dalle labbra per confortare un ferito che soffre. Disse infine il profeta Muhammad, confortare un afflitto con parole semplici è carità. Visitare gli infermi. Il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la benigloria, disse, per chi va a visitare un infermo c'è un araldo celeste che proclama, possa tu essere felice, sia felice il tuo cammino, possa tu trovare felice dimora in paradiso. Disse, che Allah lo benedica e la ben gloria, chi visita un infermo non cessa di immergersi nella misericordia divina fino a quando si siede al suo capezzale e quando si è seduto sprofonda in essa. Disse, che Allah lo benedica e la ben gloria, quando visiti un infermo chiedigli di pregare per te, poiché la sua preghiera è uguale a quella degli angeli. Seppellire i morti. Il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la ben gloria, disse: in verità la morte è turbamento, perciò quando passa un funerale alzatevi. Disse, che Allah lo benedica e la ben gloria, colui che lava una salma e non racconta ciò che ha visto viene perdonato da Allah 40 volte. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, seppellite i defunti alla svelta. Se il defunto era pio, lo porterete alla svelta verso il suo bene, e se non lo era, vi libererete alla svelta di una presenza malefica.